E considerato che anche a livello normativo tanti sono stati diciamo, le leggi che sono state fornite a proposito anche di una implementazione per esempio dei congedi parentali oppure anche della legge, ecco, della legge 104. Però mi sembra che malgrado lo strumento normativo metta la famiglia o la donna o il padre nelle condizioni di poter assolvere a quello che è il proprio ruolo sia all'interno che all'esterno, nella fase applicativa tutto questo si va a perdere. Allora, esistono degli strumenti, glielo chiedo come figura istituzionale e come professionista, esistono degli strumenti che nei posti di lavoro mettano il lavoratore, sia esso privato che pubblico, nelle condizioni di utilizzare appieno questo strumento normativo. Faccio un esempio pratico. Un figlio non diventa adulto nella fascia di età che va dai 3 agli 8 anni e quindi in quel senso il lavoratore non può essere penalizzato se dovesse assistere un bambino che non è diversamente abile ma che ha dei problemi che comunque non rientrano nell'ambito della legge 104, assistere comunque questo figlio e naturalmente non essere remunerato e non essere nello stesso tempo trattato come un lavoratore normale nel contesto in cui si trova ad operare. Allora esistono degli espedienti che possiamo diciamo, attuare all'interno dei contesti lavorativi e rendere più agevole anche la condivisione di problemi riconducibili alla 104 o al testo unico sui congedi parentali attivabili immediatamente. Congedi parentali. È vero che il congedo parentale può essere preso pure dal padre, ma nessuno può obbligare il padre a prenderlo e tutto sommato ci sono delle condizioni in cui comunque le madri preferiscono prenderlo loro il congedo parentale. Quindi il tema semmai va in un'altra linea, se il congedo parentale può prolungarsi, protrarsi e comunque essere reso meno pesante rispetto diciamo, al sistema, in modo da facilitare che la donna possa ricorrere al congedo parentale quando lo ritiene opportuno per venire incontro ai bisogni del figlio. Bisogni del figlio, come dici giustamente te, non c'è soltanto il bambino diversamente abile, c'è anche il bambino che potrebbe stare attraversando un momento particolarmente difficile per mille ragioni, ci sono mille tipi di patologie che sono descrivibili e per il quale il bambino potrebbe avere bisogno in quel momento di una presenza materna più intensa. Questo però non è in Italia abbiamo una serie di norme che, credimi, sono davvero eccellenti. Il tema però è che l'applicazione della norma non dipende necessariamente dal legislatore, dipende molte volte dal contesto sociale e dal contesto culturale in cui ci si muove. E bisogna cambiare le categorie interpretative di queste cose e bisogna cambiare anche le dinamiche che si svolgono spesso a livello aziendale, perché non c'è dubbio che ancora oggi il datore di lavoro davanti al secondo figlio, per carità di Dio, e probabilmente non solo si rigidisce, ma comincia a farti pensare che forse è meglio che tu stai a casa, che problema c'è, in fondo c'hai due bambini, in questi casi sanno fare dei discorsi di grande spessore spirituale, purché tu in un certo senso tolga l'incomodo. Allora, noi sai che da questo punto di vista, rispetto anche ai dati del Trattato di Lisbona, la donna in Italia è ancora agli ultimi posti nella dinamica del lavoro e soprattutto si sa che dopo il primo figlio c'è un calo vertiginoso che diventa pesantissimo dopo il secondo figlio. Perché? Perché poi alla fine non hai più risorse, non hai più strumenti, cioè non è così semplice gestire questa situazione, né è così semplice mandare i bambini al nido, perché certamente li mandi al nido prestissimo, peccato che quello gli venga l'influenza, peccato che quell'altro gli venga il varicella, peccato che quello gli venga il morbillo, magari gli vengono pure i pidocchi, no? Cioè faccio per dire che è una cosa abbastanza banale, nessuno è mai morto di pidocchi, però motivo sufficiente per quello. Vai a dire al tuo datore di lavoro che tuo figlio sta a casa perché hai pidocchi, magari ti manda a casa, dice non tornare per 15 giorni, non sia mai che tu contagi i pidocchi a tutti noi. Allora, le battaglie culturali però dobbiamo essere più intelligenti noi donne da fare, adesso a voi non ve ne importerà niente di questa cosa che vi sto per dire perché fortunatamente noi ci muoviamo in un contesto diverso, ma domani è la giornata del contro la violenza alle donne, giornata mondiale, troverete tutti i telegiornali, lo troverete sui giornali, domani la giornata contro la violenza alle donne. Abbiamo stato appena presentato un disegno di legge, peraltro presentato da una parlamentare siciliana nota, brillante, tutti come la Giulia Bongiorno, contro il femminicidio, espressione orribile, no, per definire. No. Allora, cioè l'uccisione della donna perché donna, eccetera, eccetera, come succede in certe culture, in certe cose. Allora, noi viviamo in una cultura, che, un contesto che dobbiamo cambiare, però noi donne dobbiamo avere una capacità di cambiare la cultura, una capacità di riproporre in termini diversi senza sbuffare, perché ti garantisco che quando lo proponi la gente sbuffa, e non sbuffano solo gli uomini, e pazienza che sbuffino, ma sbuffano soprattutto anche le altre donne. Parliamo della il tema della conciliazione. Però quando tu proponi una riflessione sul tema della conciliazione, il tema, adesso io ieri incontravo un gruppo di studentesse universitarie lì alla residenza alla Rume, e dicevo con orgoglio, guarda, noi siamo riusciti a far approvare due leggi, una delle quali che è la presenza delle donne nei consigli di amministrazione, il 30% delle donne nei consigli di amministrazione, e l'altra è la presenza delle donne nelle liste elettorali, non due donne, un uomo sarebbe stato straordinario, ma già ci è andata durissima a fare due uomini e una donna. E quindi, per dire, però sono tutte battaglie culturali, perché poi alla fine, dopo che le hai messe, sono battaglie difficili, ma noi donne dovremmo farle di più, ma dovremmo farle non con la logica attenzione, né con una logica esclusivamente, con tutto rispetto, queste sono invece le battaglie più della sinistra, è una logica esclusivamente individualistica e di autoaffermazione personale, cioè faccio questa battaglia perché difendo un principio che sono io, per carità c'è molto di buono anche in questa sensazione, però non è lo spirito. Noi vogliamo fare una battaglia, nemmeno vogliamo fare la battaglia della donna dell'angelo del focolare, con tutto rispetto per tutti gli angeli del focolare che staranno qua dentro, che saranno tantissimi, e noi vogliamo fare una battaglia per la conciliazione. E vogliamo fare la battaglia della conciliazione perché la famiglia è importante, non ci sono solo io e la mia affermazione personale che sono importante, lo posso pure capire, ma non mi entusiasma quella battaglia. Io voglio fare la battaglia in cui tu occupi un ruolo professionale importante, sei lì dove c'è una cabina di regia, ma perché da quella cabina di regia stai a varare leggi, criteri, linee guida, best practice, tutto quello che vuoi, che valorizzino la conciliazione della famiglia come soggetto importante per l'intera società. La mia famiglia è importante per tutti voi, e ovviamente la tua famiglia è importante per tutti noi. Però queste sono battaglie culturali che le fai qua a Calarossa, che le fai in università, che le fai nella scuola, che le fai in un'azienda, che le fai in un centro culturale, che le fai sui mezzi di stampa. Ma la legge c'è, perché poi alla fine è più facile fare la legge che non fare di questa legge uno stile di vita, una tradizione culturale in un paese. Parlava della casalinga, del bambino della casa. Ma qualcuna delle vostre mamme fa la casalinga? Cosa trovava a dormire? Sapeva che la mamma non lavorava? Ma guarda che comanda un negozio. Ci sia un negozio, ma è disperato. Come poi nella quotidianità, per riportare il tema alla quotidianità, uno un po' si sente certe volte un po' disperato. Non so voi, ma... Allora... Ah, lei è casalinga? Anche. Le donne sono Allora la mia domanda è questa: quando uno viene qui, sente queste cose o partecipa ad altri incontri, se ne va a casa tutta gasata, no? O io mi metto, voglio fare questa fatica della manutenzione, voglio fare tutte queste cose e farò senz'altro. Poi comincia a passare un po' il tempo e giorno dopo giorno uno si ritrova invece che questi proclami e questi propositi un po' così affievoliscono. Allora la domanda è: quali risorse ognuna di noi può mettere in cui invece troviamo una persona con cui, che lancia un tema, può lanciare un tema, può lanciare un pezzo di telefilm, questo delle casalinghe disperate, può lanciare qualcosa e ne parliamo. Poi ci può essere un tagliando annuale, come potrebbe essere anche questo, e ci possono essere altre cose. Certamente, ci sono però dei tagliandi che tu farai a tu per tu con, ti puoi fare giustamente parlando con tuo marito, parlando con un'amica alla quale riconosci maturità, esperienza, competenza, li puoi fare con un direttore spirituale, adesso non si porta più tanto di moda, ma invece è stato per molto tempo una delle risorse più importanti su cui tutti abbiamo potuto contare, proprio non solo per la formazione della coscienza, ma anche per un ascolto attento dei nostri problemi e per un luogo nel quale era possibile vivere una sincerità selvaggia e quindi anche uno svuotare il cuore pure con le sue miserie, però pure con le sue sofferenze, con le sue pene, con le sue speranze. Quindi ci sono tanti modi. L'importante è che noi riusciamo a capire che davvero abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ed è questa la vera manutenzione, che tocca l'intelligenza per chiarire dei punti, che tocca il cuore per scaldarci e per renderci nuovamente disponibili all'ascolto, e che tocca in qualche modo anche la gestione del nostro tempo, è importante.